Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un'ottima Inter, persino sorprendente in rapporto alle attese, ma soprattutto alle assenze dei giocatori chiave, prima e durante, Zanetti, Samu e Milito, non della partita, Julio Cesar e Samu e Lucio infortunati in corso d'opera. Ma proprio dalla freschezza dei sostituti sono venute alcune delle note più liete della serata, fermo restando questo eccezionale momento di forma di Samuel Eto'o. Oggi ne parliamo con, forse direi il campione simbolo, uno dei campioni simboli della vecchia grande Inter, cioè con Luisito Suarez. Buongiorno Luisito. Buongiorno, senti, la prima domanda è questa. Come si permette il centravanti dell'Ajax e dell'Uruguay di chiamarsi come te? Non è bello questo, eh? No, si vede che avendo lo stesso cognome, che è un cognome molto diffuso dalle mie parti, sono emigrati in tanti verso Buenos Aires e Montevideo, allora magari il papà era un tifoso e ha deciso di metterle anche il nome uguale. Senti, però, penso che sia questa. Gran giocatore però, eh? Sì, no, è molto interessante, è un bel giocatore, sì, è un giocatore che... meritava già forse, già prima di quest'anno, già di essere fuori, ma almeno dopo il Mondiale pensavo che fosse andato via, invece si vede che le società hanno pochi soldi, allora certo. Stanno lì a guardare un po'. Stanno lì a guardare, ma questo, per carità, l'Ajax è una squadra molto degna e ci mancherebbe altro, ma io ho l'impressione che salirà ancora di livello. Sì, vabbè, però sai, arriva un momento nella carriera di un calciatore che deve... puntare a fare qualche cosa di più importante, perché lì sa che non andrà oltre a questo, in questo Ajax di questi ultimi anni, dove è una squadra che vende, che mette i giovani e vende, non è che sì. Può puntare a vincere qualche cosa. Che vende, che però va anche giù, a differenza di una canzonetta, di una canzonetta vecchissima. Senti, Suarez ha conservato la forma mondiale, a differenza di altri, no? Siamo su altalene varie, eccetera. Allora, se restiamo all'Inter, indubbiamente il problema Milito c'è. Per adesso lo ha compensato Eto'o, ma insomma, a gioco lungo potrebbe diventare un problema più serio, mi pare. Certo, perché questo tipo di squadra come l'Inter attuale deve puntare non su un giocatore, perché è molto pericoloso, deve puntare un po' di più su quello che è la squadra in generale, no? Sì. Però diciamo che il vantaggio di queste squadre è che hanno sempre un qualche calciatore che momentaneamente, quando ci sono delle situazioni delicate, portano avanti la squadra con la sua qualità. Certo. Senti, tu hai detto qualche tempo fa, un paio di settimane fa, almeno io ho letto una tua dichiarazione, che avevi detto: io non rimpiango Mourinho perché sono i calciatori che si rimpiangono, certo, non gli allenatori. Certo. Perché secondo me, diciamo, l'allenatore è importante solo in una cosa, come che non deve fare grossi danni. Quando non fa grossi danni, il più è fatto, no? Deve tenere un pochettino la gente un po' a posto, deve tenerla in buona condizione fisica, che questo non dovrebbe essere un problema, anche se vedo che spesso e volentieri lo ha, perché prima l'allenatore facevano tutto, un allenatore, adesso ci sono 40 specialisti di tutte le cose, pure ci sono alle volte complicanze. Però quello che conta sono i giocatori, perché quello che dice, che fa l'allenatore, è una roba fredda, cioè va sulla lavagna, va sulle scritte, però dopo... come diceva un mio amico allenatore, dice: dopo viene l'arbitro, fischia e si muovono i calciatori, capisci? Allora, se non c'hai i giocatori in gamba, che sanno anche, perché la partita poi, perché ho detto questo? Perché l'ho spiegato 100 volte. Sì. Quando un allenatore prepara la partita, io delle partite che hanno preparato allenatori miei, che dicevano: facciamo così, perché se va di questa maniera faremo così... non sono mai andate così le partite, se è venuta una su 1000 è già tanto, per cui dopo deve essere il giocatore che sarà già anche in campo, perché non è come in altri sport che fermi il gioco, le tiri, certo, capisci? Fai il minuto di... Ecco, in campo non ti sentono nemmeno, l'unico che sente un pochettino è quello che passa lì davanti all'allenatore, il resto no, quando intervieni è il giocatore che sa come fare, come muoversi, come decidere in determinati momenti. Poi lì, sai, il calcio, come tutti gli sport, decide in decimi, di millesimi, di secondo. Certo. Per cui e sono i giocatori, non c'è niente da fare, anche se adesso c'è l'abitudine di dire la squadra di, la squadra da. Luisito. La squadra è dei giocatori, la società che prende una buona rosa di giocatore e poi via. Quando quindi noi, io vado avanti sul tuo ragionamento, che è, non è un ragionamento, è un trattato di filosofia secondo me, e io sono in piedi ad ascoltarlo religiosamente, quando quindi noi vediamo questi allenatori che io chiamo saltimbanchi, che corrono su e giù lungo la linea laterale con l'aria di dire devi fare questo, devi stare lì, devi andare là, sono disperati che non li sentono e poi non li seguono nemmeno, perché alle volte dicono una cosa e poi il giocatore di là ha deciso perché ha capito che in quel momento andava fatta un'altra, capisci? Certo che capisco, perché se già devi vedere il pallone, l'avversario e dov'è il tuo compagno, forse vedere appunto, anche il saltimbanco è dura. Anche a seguire quello che ti dice l'altro, all'orecchio, certo. No? A meno che fra qualche anno non giochino con l'auricolare, con dei cose lì nelle orecchie che impartano... Però sarà una confusione, perché mentre ascolta quello lì perdi l'attimo, e l'attimo è talmente veloce nel calcio che buonanotte. Fuori classe si nasce, non si diventa, e fuori classe si rimane, evidentemente. Questo è un trattato calcistico, certo, quello che Luisito Suarez ci sta impartendo. Niente, non è che lo dico io perché ho inventato niente, è un'esperienza di vita, di calcio, vissuta, reale. Non chiacchierata. E a che livello? Luis, stai lì un attimo, che abbiamo un minuto di suggerimenti per chi è in viaggio sulle strade. Stanno arrivando moltissimi messaggi, ne leggo due velocemente. Il primo per ragioni tecniche. Fabrizio Fanton ci segnala che anche oggi scrive a Chiavari, cioè vicino a Genova, siamo senza segnale. E mi dispiace molto, Fabrizio, perché lei si sta perdendo una conversazione di altissimo livello di Luisito Suarez. L'altro arriva da San Pietro in Casale e Giancarlo scrive: grazie a Luisito Suarez per aver partecipato 2 settimane fa alla commemorazione di Giacomo Bulgarelli. Mi sembra un gesto molto bello da parte tua. Luis, Benitez è cittadino madrileno, è nato a Madrid, sì. Cioè, tu lo conoscevi prima che arrivasse? Ah, lo conoscevo ma poco. Cioè, ho avuto una relazione molto così, incrociarlo una volta ogni tanto, ma proprio basta, non è che sono proprio amico suo, per dire, no? Lo conosco molto poco. Però mi piace perché c'è un modo di fare, intanto è un allenatore che pur avendo ottenuto il risultato è un allenatore modesto, sì. Che l'ha detto chiaramente anche quello che abbiamo parlato prima anche lui, sì. Dice ma l'Inter non è di Benitez, e tanto meno adesso che è appena arrivato, è dei giocatori, della società, perché dipende quello che le mettono a disposizione, se no è lui che cosa vuoi che faccia, mentre che altri vogliono fare passare che senza di loro non sarebbero andate avanti le società, secondo che rosa hanno. Altrimenti, diciamo, quando il giorno che io vedrò allenatore, tipo per fare l'ultimo esempio Mourinho, no? Che va a una squadra di media levatura e vince il campionato, allora dirò sì, è lui che l'ha vinto. Buonanotte. Però se viene una società che già c'ha una squadra che aveva già vinto dei campionati, che il primo anno le prendono 4-5 giocatori, il secondo 6 di livello internazionale, vorrei vedere se non vince anche. Già. Invece Benitez è il primo allenatore della storia recente dell'Inter, quella dell'era Moratti, della seconda era Moratti, a cui non solo la società non compra i giocatori che lui aveva segnalato, ma semmai li vende. E lui cosa fa? Lui prende sti ragazzi, sti giovani, e cerca di, mi pare di capire di ieri sera, un po' per necessità e un po' per scelta, cerca di integrarli con i vecchi. Beh, ieri sera è andata anche bene a parer mio, perché se nei primi minuti va avanti il Werder Bremen cambia la partita e sono stati 2 volte davanti al portiere, però questo mix sembra che cominci a funzionare un po'. Sì, diciamo che lui si sta arrangiando molto bene in questa difficoltà, perché il problema dell'Inter non era già che ha venduto e non ha comperato, ma il problema è che appunto è un anno molto lungo, negli ultimi anni i calciatori si fanno spesso e volentieri male, sì. Hanno sempre degli infortuni. Se non avessero le rosse, se le rosse attuali fossero quelle del nostro periodo, ma arriverebbe delle domeniche non ci avrebbero neanche 11 giocatori, capisci? Certo. E lui si sta arrangiando, non si è lamentato più di tanto, magari avrà fatto capire alla società, guardate che qui c'è, manca, c'è bisogno, eccetera, eccetera, eccetera, però pubblicamente è stato lì tranquillo e si sta tentando di arrangiarsi nel migliore dei modi, dando in qualche momento spazio anche quando così vede che è importante darlo, e in questo caso di ieri per necessità, e i giocatori le hanno risposto anche molto bene, anche perché sicuramente sta facendo anche un buon lavoro psicologico e di fiducia in questi giovani. Forse c'è un problema infortuni rispetto alle ultime stagioni, cioè mi sembra che il numero di infortuni comincia a essere leggermente più preoccupante degli ultimi anni. Sì, si va avanti così senz'altro, però bisogna tener conto che appunto questa squadra bisogna piano piano cominciare a pensare a un rinnovamento, no? È passato un altro anno e quando i giocatori adesso che giocano a questi livelli di tante partite così continuate, quando vai un po' avanti con l'età, alle volte magari tiri un po' il collo perché la partita ti richiede un sforzo leggermente superiore a quello che è nelle tue possibilità, e vedo che vengono più infortuni del solito. Per questo è magari più preoccupante come situazione di tutte le altre. È chiaro che Eto'o in questo momento ha un ruolo assolutamente decisivo nell'Inter, certo. È in una forma straordinaria, per carità, Eto'o, ma non sempre in carriera ha avuto un momento così. Lui stesso ha dato una chiave di lettura della differenza di rendimento tra lo scorso anno e questo. Dato che ha parlato in spagnolo, io ti faccio sentire questo frammento, così poi ci aiuti a tradurlo. Va bene. Como mister lo estás haciendo con la ayuda de Esteban por mi lado, me da más aire para atacar mejor. Con Mourinho teníamos la idea clara de jugar a contraataco, ¿no? Y con Rafa Benítez queremos hacer la presión arriba, ¿no? Y para los delanteros es mucho mejor porque recuperamos la pala vecino a la portería y podemos tener ocasiones de gol, ¿no? A me sembra abbastanza chiaro, però Luisito Suarez, traduttore d'eccezione, sì, no, niente, dice che con l'altro avevano la idea chiara di però che giocavano contro attacco, contropiedi, no? Mentre che con queste cosa fanno? Pressionano più avanti. Più alti, sì. Infatti, più alto, si dice adesso moderno, sì, bravo. Più avanti, perché più alto più alto fa fino, dai, Luis. Grande come era Facchetti, certo. O piccolo come Cordova, per dire, no? E allora, per esempio, l'esempio chiaro è stato la rubata di pallone che ha fatto ieri Cambiasso, sì, oltre la metà campo al tedesco, che poi ha permesso a Eto'o di involarsi verso la porta e fare gol, no? Certo. Questo è quello che tenta di fare, e poi in più un po' più di possesso di palla e di giocare con la squadra più verso la metà campo avversaria che non verso quella dell'Inter, come succedeva l'anno scorso. Però Luis, anche questo, al calcio si vince in tutti i modi, no? Sì, certo. Certo. Per cui, però è naturale, ogni allenatore ha un'idea diversa dall'altro. Certo, e ogni giocatore ha il diritto di esprimere la sua opinione sui vari sì, moduli. Sì, sui sì, vari... Però questo di Eto'o era chiaro, no? Perché lui cosa ha fatto? Si è trovato che è arrivato quando ha messo Milito, e tra l'altro Milito ha cominciato a fare gol a tutto spiano. Lui era lì che partiva dall'angolo, quando arrivava in zona gol arrivava un po' faticato, no? E forse neanche l'anno scorso non era così a posto come quest'anno, all'inizio del campionato parlo. Certo. E facendo questa fatica faceva meno gol. Evidentemente quest'anno gioca più vicino, soprattutto quando gioca più centrale, gioca nel suo spazio naturale, dove ha sempre fatto tanti tanti gol come sta facendo adesso. Il problema nasce che tutti abbiamo anche in mente il Milito dell'anno scorso, che è stato veramente eccezionale, è stato decisivo al 1000 per 1000, e questo Eto'o lo avevano convinto a fare mediano terzino e qualche volta l'ala. E adesso lui poi iniziando in questa maniera, questo è un problema che sicuramente l'allenatore vedrà come soluzionarlo. Certo, in qualche modo dovrà risolverlo. Certo, no, gli darà più possibilità di fare più modi di far gol, però avrà qualche problemino indietro che non aveva prima, quando le due ali giocavano così tanto indietro che proteggevano molto sia il centrocampo che la difesa, no? Tutte le cose hanno un vantaggio e uno svantaggio. Luis, scrive Antonio, seleziono uno dei non so quanti messaggi che sono arrivati per te, te ne seleziono solo uno, firmato Antonio, che dice: nell'Inter di oggi tu che posizione prenderesti? Una quella che ho preso sempre, lì a metà campo, a dirigere le operazioni. Ti piazzeresti poco più avanti rispetto alla coppia centrale, rispetto a Lucio Samuel? Sì, un po' più avanti, certo. Un po' più avanti, quello che ho fatto nell'Inter, diciamo, che poi dipende un po' anche di come è messa la squadra, che intenzione ha di gioco, eccetera, no? Perché io, per ragione di stato, che era di squadra, diciamo, io venivo da giocare da regista in Spagna a Barcellona, però era un regista che andava anche avanti, che faceva l'anno 15-18 gol. Primo anno qui ho giocato un po' più avanti, ho fatto 9. Però dopo, per ragioni di squadra, perché la squadra era dopo messa in un certo modo, con Jair, con Mazzola, veloce, eccetera, sono rimasto più sulle mie. Sì. Ho fatto meno gol, però ho combinato magari cose più importanti in altro senso del gioco per la squadra. Certo. E tutto dipende di questo. Però io sono sempre stato un organizzatore di gioco, con una visione molto ampia del gioco, e ripeto, in Spagna più inserimenti, perché anche il calcio lì è un po' diverso dell'Italia, e facevo più gol. Certo. Luis, se ti dicessi grazie sarebbe poco per questa lectio magistralis. Non darmi grazie e fammi un'altra cassuella. Un'altra cassuella? Era una bagna cauda quella che abbiamo mangiato 20 anni fa insieme. No. Una bagna non cauda. Non ce la farei. Non una cassuella. Allenati. Quella barbarità. Barbarità. Allenati, che una volta o l'altra ci possiamo ritrovare. È andato da Dio, sì. Grazie, Luisito. Va bene. A presto. È saltata, un fuori, abbraccio, anche, buon lavoro, è saltata fuori anche una storica bagna cauda di una ventina d'anni fa, con questo che è stato, non lo so, si può discutere se è nei primi 10 o nei primi 12 o nei primi 20 di tutti i tempi, ma insomma, un giocatorino più o meno di quel livello lì. Nella seconda parte del programma, qualche altro commento all'Inter, soprattutto i vostri. L'Europa League, la vigilia di Europa League di questa serata, il caso Contador, qualche mail interessante, una notizia che arriva da Gubbio a proposito del portiere ferito domenica da un'aggressione allo stadio di Alessandria. Tutto questo dopo l'aggiornamento dai mercati. Una rapida sintesi di questi due giorni di Champions League con i numeri di Franco Piantanida. 44 gol nella prima giornata, 43 nella seconda, quindi insomma, corrispondenza assoluta. 5 vittorie in trasferta nella seconda, 2 nella prima giornata. In testa, punteggio pieno nei rispettivi gironi, ci sono Copenaghen, Spartak Mosca e Shakhtar Donetsk, che effettivamente insomma non era facilissimo da prevedere, no? Sono quelle cose che non fanno felici gli scommettitori, immagino. Sono le tre uniche, no, non le tre uniche, sono tre squadre che non hanno ancora subito un gol, così come i Rangers, il Manchester United e il Real Madrid. Un'altra curiosità è che poche squadre, solo 5, hanno vinto sia l'ultima giornata di campionato che la partita di Coppa. 5 su 32 sono poche, sono Roma, Barcellona, Rangers, Rubin Kazan e Shakhtar. Ci sono già degli ascoltatori collegati. L'arbitro scelto, designato per Inter-Juventus di domenica sera, è Banti di Livorno. C'è in linea Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo solamente rispondere al mitico Suarez, da tifoso interista, posso dire altrimenti, che ha citato Mourinho, ecco. Lui ha detto fosse stato in grado di vincere con una squadra, o se dovesse vincere con una squadra di media levatura. Io leggerei la formazione del Porto con cui ha vinto la Champions. E in seconda battuta posso solo dire che in 20 anni in cui seguo l'Inter, solo lui, questo è un dato di fatto, mi ha fatto provare certe emozioni, ci ha portato al livello. No, questo lo credo, Paolo. Infatti, emozioni da vittoria non c'è nessun dubbio. Io ci metterei qualche brutta figura mediatica, magari anche, no? Insieme a tutti questi trionfi. Però da avessero detto, firmeresti per una brutta figura? Sì, per fare qualche figura di M rispetto a cosa? Sì, lo credo bene. Provare quello che nessuno in 20 anni di allenatore di Inter ci ha mai fatto provare. Quindi io ringrazierò Mourinho per sempre. Tutto perfetto, quanto. È un dato oggettivo questo, Paolo, e sono d'accordo con lei. Lutto per Carlo Ancelotti. Stanotte è scomparso il padre Giuseppe, che da tempo viveva ricoverato in una casa di riposo di Gonzaga in provincia di Mantova. Il papà di Giuseppe Ancelotti viveva prima in famiglia a Reggiolo, provincia di Reggio Emilia, dove sabato si terranno i funerali. Tutte le società, a cominciare dal Chelsea, dal Milan e dal Parma e da tante altre, si stringono in questi minuti, proprio da quando la notizia si è diffusa, si stringono a Carletto Ancelotti. Diego ha chiamato dalla provincia di Alessandria. Buongiorno. Buongiorno, ciao Garanzini. Dica. Innanzitutto voglio chiedere scusa per quello che era successo ad Alessandria domenica col portiere del Gubbio da parte della città e della provincia. Questo è molto bello. È stato individuato il deficiente, mi permette di dirlo, che ha fatto questo. Sì, solo uno, per la verità. No, erano anche qualcun altro. Appunto, cioè ne hanno preso solo uno. Vanno in fuga perché sono dei coraggiosi. No? Ma certo. E gli hanno inflitto, a questo unico che hanno preso, gli hanno inflitto la bellezza di un daspo. Pensi che paese repressivo che... Sì. Ma tra l'altro questo personaggio credo che non fosse neanche allo stadio domenica a vedere la partita, quindi sa cosa gli interessa lui. Del dasto. Sicuramente era un pregiudicato, questo lo si è già ricavato dalla sua personaggio simpatica abbastanza conosciuto in città. Bello, bella gente. Dica, mi spiace, Diego. Mi spiace per la figura che abbiamo fatto, quello, perché sono anche persone. E questo le fa onore, e sono convinto che una città come Alessandria e tutti gli alessandrini che conosco sono convinto che sono ancora rossi adesso dal rossore di domenica, dall'imbarazzo. Abbiamo avuto gente come Rivera, come Maldera, come anche un certo Fausto Coppi, volendo. Fausto, no? Coppi, grandissimo. Dica. Ecco, infatti proprio di questo volevo parlare. Io sono un bodybuilder ex agonista e volevo parlare del caso Contador, se era possibile. Sì. So cosa vuol dire assumere sostanze anabolizzanti. Non è bello da dirsi, ma è così. Purtroppo nella nostra disciplina si usa fare uso di queste cose. C'è chi sbaglia, ammette di sbagliarlo. No, pensi che prima, non più tardi un quarto d'ora fa, Suarez ha definito una barbarie una bagna cauda, e io l'ho perdonato solo perché gli voglio bene. Insomma, da lì all'anabolizzante, sono più da bagna cauda. Ecco. Sì. Però è una disciplina che porta anche a questo, giusto o sbagliato che possa essere. Mi veniva da sorridere sentirlo dire che ha mangiato una carne non buona come spiegazione. Sentivo Radio 24 prima del collegamento alla trasmissione che il giornale radio diceva proprio questo. Sì. Mi viene da sorridere, perché io penso che gente che corra per 3 settimane a luglio su delle montagne come il Tour de France di Zoar, dal 2, non sia proprio pulita. E non è che voglio fare il moralista o fare quello che sa le cose, però a 40 di media orari, 3 settimane per circa 1000 passachilometri, si fonde un motorino di 50 centimetri cubici, credo. Sì, Diego, le dirò. Il fatto che Contador parli di un filetto arrivato dalla Spagna che gli avrebbe causato una intossicazione alimentare, e da lì queste tracce di clenbuterolo, insomma, mi viene in mente, era credo un giocatore del Perugia, forse Bucchi. Se non sbaglio era Bucchi, che disse carne di cinghiale, purtroppo quando lo trovano positivo. Purtroppo mi è scappato una sera mangiando carne di cinghiale. Poi ne abbiamo lette di ogni genere, abbiamo letto degli shampoo, la birra, insomma, pazzie totali. Io, si immagini se sto dalla parte di Contador, dico però che nel suo caso, e qui sto leggendo un'agenzia che è arrivata non molto tempo fa, la concentrazione di sostanza trovata nelle urine del laboratorio di Colonia è circa 400 volte meno della concentrazione che i laboratori antidoping accreditati dall'AMA possono rilevare in genere. Ora, non voglio dire che di quel clenbuterolo che è un farmaco utilizzato in condizioni normali per il trattamento dell'asma e la dilatazione dei bronchi, non voglio dire che in modica quantità sia accettabile, non sto dicendo questo, sto dicendo però che lo stesso comunicato dell'UCI parla di tracce molto lievi di questa sostanza, e quindi forse è uno di quei casi in cui si può provare ad aspettare senza sì, mi conferma comunque Franco Piattarina che era Bucchi e Monaco, due positivi a Perugia, positivi al nandrolone e non al gaucci, che già era un'altra sostanza interessante, puntarono il dito contro il cinghiale, sostennero di aver mangiato prima la sera prima del test del cinghiale. Oh, chiudiamo col ciclismo. Cancellara ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo nella cronometro, secondo l'inglese Miller ha più di un minuto di distacco, e apriamo il capitolo se ci riusciamo, perché non siamo proprio in grande anticipo, il capitolo Europa League. Allora, la vigilia di Manchester City Juventus, beh, sentiamo Mancini, perché mi sembra comunque la curiosità vera della serata. Penso che sarà una partita particolare, perché chiaramente io alleno una squadra inglese contro la Juventus, è un po' una cosa un po' particolare, però poi sarà solo l'impatto. La Juve ha le qualità comunque di vincere in Polonia, di vincere in Austria, quindi credo che, ripeto, penso che possa qualificarsi, insomma, se facciamo quello che sappiamo fare credo che ci possiamo qualificare tutte e due. Io credo che siano dello stesso livello, sia noi che la Juventus abbiamo costruito squadre nuove, abbiamo bisogno di tempo per cercare di farle rendere al massimo. È vero, Nicola, se apriamo il libro delle palle raccontate da quelli trovati positivi, no, non la finiamo più. Certamente Nicola ricorda, è vero, il record assoluto è di Boriello, perché Boriello fu trovato positivo e disse che la colpa era di una crema vaginale usata ovviamente dalla partner, che si chiamava Belen. Carina anche questa, discreta. Il portiere del Gubbio, invece, di cui abbiamo parlato a lungo ieri con quello strepitoso intervento appassionato di Gigi Simoni, direttore tecnico del Gubbio, il portiere del Gubbio 21enne Lamanna, aggredito domenica ad Alessandria, può avere sì avuto il relativo conforto del fatto che sia stato individuato e fermato o denunciato, ripeto, il suo aggressore, uno dei suoi aggressori, il principale, ma nel frattempo ha avuto la prognosi definitiva dopo un consulto con un chirurgo maxillofacciale di Roma e dovrà essere operato all'occhio, dovrà essere operato per ridurre una frattura orbitale, giusto per dire come ci sono andati leggeri, no? questi galantuomini. Ultimo intervallo di oggi, strade. In molti hanno scritto, anzi avete scritto, per ricordare Bruno Giorgi, galantuomo allenatore, prima ancora che allenatore galantuomo, di cui abbiamo già ricordato ieri la scomparsa. Tra tutti i messaggi ho selezionato quello di Gian Andrea Moresi, che scrive: sono Andrea, genovano, ho 40 anni, ricordo bene Bruno Giorgi, un vero galantuomo. Al Genoa ebbe l'ingrato compito di succedere a Bagnoli e, spazzato via in poche giornate da tifosi abituati troppo bene da una società ormai in disarmo, ebbe la signorilità di rassegnare le dimissioni. Avrebbe potuto darci tantissimo in termini calcistici, si accontentò invece di darci una lezione di vita e un esempio di dignità. Sottoscrivo al 100%. Ripasso della storia, vediamo cosa ha trovato per oggi, 30 settembre, Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 settembre 1990. A Erez della Frontera trionfano le Ferrari, con Prost che taglia il traguardo per primo, seguito da Mansell. Per la scuderia di Maranello si tratta della doppietta numero 41 nella storia del Mondiale, una circostanza che non si ripeterà per 8 lunghissimi anni, fino al 13 settembre 1998 a Monza, grazie a Schumacher e Irvine. Ad oggi sono 81 le doppiette firmate Ferrari. L'ultima è stata ottenuta da Alonso e Massa il 25 luglio di quest'anno ad Hockenheim. Il 30 settembre dell'87, mi segnala ancora Nicola Filippone, in cui cuore, lo capite bene anche dall'accento, batte dalle parti napoletane, fu una delle più grosse delusioni della storia recente del Napoli, perché quella sera il Napoli, che aveva perso 2-0 l'andata in casa del Real al Bernabéu, tentò la rimonta e dopo 9 minuti Francini aveva segnato il gol del vantaggio, e quindi c'erano i presupposti per tentare l'impresa, e invece poi Butragueño pareggiò alla fine del primo tempo e chiuse praticamente il discorso qualificazione. C'è in linea Gianni da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ringrazio e saluto tutti. Volevo chiedere a Suarez come mai non ha fatto l'allenatore, visto che c'è gente meno preparata di lui e lo fa. Gianni, l'ha fatto l'allenatore, Suarez, non era il suo genere, infatti l'ha detto più di una volta. Lui è stato anche selezionatore della nazionale spagnola, prima della giovanile e poi della squadra maggiore, ha allenato anche l'Inter, cioè è subentrato all'Inter per brevi periodi, ma lo ha sempre fatto più per spirito di servizio, sia per la Spagna che per l'Inter, che non per vocazione o per effettiva convinzione. Non era, infatti, quando lui parla da ex, come ha parlato prima, cioè da uomo di estrema competenza a livello più alto, lui parla da ex campione, da ex calciatore, più che da ex allenatore. Ma alcune cose che ha detto sulla figura allenatore certamente discendono anche dalla sua esperienza personale, direi. Quindi scrive Stefano in un SMS molto brillante e che condivido non più al 100 ma al 1000%. In Italia si rischia meno ad aggredire senza motivo una famiglia fuori da uno stadio che a tamponare una macchina avendo bevuto due bicchieri di vino. Ahimè sì, Stefano, questa è la simpatica legislazione vigente. Torniamo alle vigilie di Coppa. Sentiamo per esempio Mazzarri alla vigilia di Steaua a Napoli. Un campo difficile, un ambiente infuocato, dove ho sentito che c'è il nuovo allenatore che è un idolo della tifoseria, e proprio non a caso arriviamo noi e troviamo un ambiente euforico invece di così un po' depresso, comunque leggermente negativo, no? Dal punto di vista della propria squadra, della squadra che gioca in casa. Aspetta, giochiamo probabilmente meglio, facciamo anche meglio perché troviamo le squadre di casa che fanno anche loro gioco. Avrete notato quel non a caso, io credo, non, se avete ascoltato non vi sarà sfuggito, perché Mazzarri piange anche prima ancora di scendere in campo, non solo dopo, e dopo naturalmente di qualcuno è sempre colpa, preferibilmente dell'arbitro. Il programma completo della serata prevede Sampdoria Debrecen e Steaua Napoli alle 19, alle 21.05 Manchester City Juve e Palermo Losanna presentata da Rossi. Le partite vanno vissute nel momento contingente, cioè non è che sono legate a quell'altro. È vero che la mia prima partita l'abbiamo persa, sicuramente dovrò fare dei cambi, anche perché ho bisogno in questo momento di vincere la partita, di far riposare i giocatori e soprattutto di vedere magari all'opera qualcuno che non ho ancora visto. Il ragazzo reduce dall'infortunio, adesso deve ritrovare le sensazioni e ci vorrebbe qualche partita un po' più morbida, però non ce l'abbiamo partite più morbide, quindi dobbiamo fare di necessità virtù, può stare a me sceglierlo. Questo è uno che mi è simpatico e credo non soltanto a me, al di là della sua indiscutibile bravura. Torniamo, cioè ci tornate voi con i vostri messaggi. Mirko, a proposito di prodezze verbali in seguito a test positivi all'antidoping, ricorda le caramelle di Simoni, il ciclista. In effetti qualcosa mi rischiara dalla memoria. Ruggero ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Luca. Luca, domando scusa, ma lei è un doppio nome, no? No, no, no. E no. Allora è un equivoco e basta. Scusi e dica. Allora, sei sempre a Torino comunque. Sono tifoso juventino, ho intervenire in merito alle ultime dichiarazioni del dirigente dell'Inter. Sì. Secondo me, sbagliate quantomeno. Forse perché questi signori non sanno quello che avviene purtroppo nelle città così. Io posso portare la mia testimonianza che ad esempio su Torino purtroppo ho notato, sentito, sento che c'è addirittura un odio che va quasi al di là dell'odio, diciamo, tra virgolette, sportivo nei confronti dei tifosi dell'Inter. E quindi queste esternazioni quantomeno lasciano, cioè, alla vigilia. Sì, vorrei ricordare a Ruggero. Segnalo soltanto per la completezza dell'informazione, perché lei ha dato questa cosa vagamente criptata, poiché Paolillo, per carità, è l'amministratore delegato dell'Inter, ma insomma non è che per fortuna che venga ascoltato urbi e torbi. Paolillo ha detto ieri una cosa tipo: non solo non dobbiamo restituire lo scudetto 2006, ma credo che la Juve ce ne debba anche alcuni altri. Io credo che sia l'ennesimo esempio, cioè questo non riguarda solo Paolillo, riguarda molti altri dirigenti e presidenti a ogni latitudine italiana. Insomma, questa frase, comunque restiamo all'ultima, questa frase di Paolillo, a parer mio, integra l'introduzione della tessera del dirigente, perché quella del tifoso a parer mio è completamente inutile. La tessera del dirigente credo che una finalità sociale superiore potrebbe anche avercela. Chi ci manca di voci di vigilia? Ci manca la Sampdoria, e quindi la vigilia di Sampdoria dei Bresseni vista da Dessena. Non si vede l'ora di giocare, perché comunque c'è Pazzini che vuol far gol, che tutta la squadra che vuole far bene, vuole andare più avanti possibile, e non sottovalutiamo niente. E poi ci sono giovani importanti che vogliono dimostrare il loro valore, compreso io. Abbiamo fatto queste tre partite, le ultime due pareggi, però penso che abbiamo dimostrato di essere squadra, aver tirato fuori carattere. Poi dopo c'è da migliorare, quello do ragione. Segnalando che nell'edizione 2011, ho letto stamane, dello Zingarelli appena uscita, tra circa un migliaio di neologismi dell'ultimo anno, uno è gollonzo. Questa espressione, che nasce dal linguaggio del giornalismo sportivo e tra l'altro ha il brevetto della Jalappas di qualche anno fa, gollonzo è diventata un'espressione corrente che è finita sui dizionari di lingua italiana. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Fabio Cantadori in regia, a tutti voi che ci avete seguito. Buon pomeriggio. Tempo di sport.